Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. È il primo impianto pilota in Italia per il recupero di materiali, metalli per lo più preziosi, da rifiuti elettronici. Si chiama Romeo, che sta per Recovery of Metals by Hydrometallurgy, ed è in funzione presso il centro Enea della Casaccia. Oltre ad essere l'unico impianto del genere nel paese, Romeo è anche caratterizzato da una tecnologia a basso impatto ambientale, soprattutto a basso impatto energetico, ed è una tecnologia alternativa alla cosiddetta pirometallurgia, che, come dice il nome, invece fa abbondante utilizzo di energia termica per separare i diversi elementi preziosi che sono presenti in schede elettroniche, microchip, batterie e altri rifiuti di questo tipo. Ne parliamo con Danilo Fontana, che è primo ricercatore del laboratorio Tecnologie per il riuso, il riciclo e il recupero e la valorizzazione di rifiuti e materiali dell'Enea. Buonasera Fontana. Buonasera. Allora, intanto Fontana, più o meno che cosa contiene una tonnellata media di rifiuti elettronici? Dico media perché ovviamente può arrivare di tutto e ogni volta i numeri cambiano. Esatto. E dunque, dalle nostre stime, dai nostri esercizi di impianto e diciamo valutazioni su vari tipi di lotti, abbiamo trovato che in una tonnellata di schede elettroniche possiamo trovare circa 130 kg di rame, circa 40 kg di stagno, una quindicina di kg di piombo, questo per diciamo, i metalli quelli diciamo di tipo classico, mentre all'interno di queste schede troviamo anche l'argento, possiamo arrivare fino a 350 grammi di argento, sì, e addirittura 200 fino a 240 grammi di oro. E quindi un bel valore. È un bel valore, diciamo che potenzialmente una tonnellata di schede elettroniche contiene più di 10.000 euro di metalli raffinati, ecco. Allora, veniamo alla tecnologia che voi utilizzate, che dicevo essere una tecnologia peculiare che avete sviluppato peraltro lì all'Enea. Quali sono le caratteristiche principali e quali sono i principali vantaggi che offre rispetto, dicevamo, alle tecnologie tradizionali? Dunque, questo sì, è un brevetto tutto italiano, sviluppato tutto qui nei nostri laboratori con i colleghi Enea. Questa tecnologia, come ben introdotto lei, è una tecnologia di tipo idrometallurgica. Che vuol dire in pratica che si sciolgono i metalli, adesso la dico male, ma cioè praticamente il primo step, che è questo qui che dice lei, praticamente attraverso una soluzione composta da varie sostanze chimiche in prevalenza di acidi minerali, viene effettuata una prima lisciviazione più o meno selettiva, dopodiché praticamente si ottengono tre fasi, un fango, un materiale solido e una soluzione liquida, che devono essere avviati ad ulteriori trattamenti per il recupero selettivo di tutti i materiali contenuti. La nostra tecnologia permette di ottenere oro direttamente in forma metallica ad elevato grado di purezza, otteniamo anche rame, argento, stagno e piombo. Il processo avviene a temperatura ambiente, contrariamente abbiamo aggirato in questa maniera il discorso della pirometallurgia, rimanendo quindi mantenendo bassi consumi energetici. Emissioni gassose, sì? Opportunamente trattate, vengono trasformate in reagenti che possiamo reimpiegare in testa al processo. Quindi ecco, diciamo, il valore aggiunto è anche questo. Certo, e se non sbaglio, voi affermate che, anche se per ora vi state fondamentalmente esercitando sulle schede elettroniche, in futuro questa tecnologia può essere estesa ad altri componenti, a partire dalle famose batterie al litio. Certo, l'idrometallurgia, proprio per la sua peculiarità, una tecnica separativa, permette il trattamento di metalli con proprietà molto simili, ci consente di ottenere prodotti con un elevato grado di purezza e quindi ben si adatta a tutte quelle matrici complesse, quali possono essere magneti permanenti, lampada a fluorescenza e non ultime, un problema che adesso ovviamente deve essere affrontato abbastanza presto, il discorso delle batterie al litio, che presto invaderanno diciamo i mercati per l'automotive e quant'altro, insomma. E che sappiamo vanno poco d'accordo col calore, tra l'altro. Allora, senta, è una tecnologia anche economicamente competitiva? Quali condizioni eventualmente? Dunque, Certo, prima di passare, di trasferire in scala industriale, giustamente l'investitore deve farsi i conti, no? Noi abbiamo stimato che per far sì che, diciamo, questo tipo di attività diventi competitiva e redditizia, la taglia minima di un impianto sul territorio dovrebbe essere almeno di 1000 tonnellate anno, dove per 1000 tonnellate si intende di scheda elettronica. Preferibilmente una delle schede elettroniche provenienti da computer o cellulari, che sono quelle, diciamo, più ricche in materiali. Ecco, oggi che fine fanno invece queste schede elettroniche così ricche di materiali? Beh, in Italia attualmente, diciamo, va per la maggiore il commercio verso l'estero, perché, diciamo, l'industria del riciclo fondamentalmente in Italia si ferma nelle prime fasi di pretrattamento, quindi del dismantling e via dicendo, e lasciando la parte più ricca ad operatori solitamente posti oltre i nostri confini nazionali, prevalentemente nel nord Europa. Senta, l'impianto pilota a questo punto abbiamo detto che c'è, qual è l'obiettivo che vi proponete da qui in avanti, considerato che finora evidentemente abbiamo detto le schede elettroniche raccolte vanno altrove? Il prossimo passo è realizzare l'impianto di tipo industriale, come dicevamo prima, un impianto di almeno un migliaio di tonnellate, che sia in grado di gestire almeno un migliaio di tonnellate anno. E mi pare di poter dire che il rischio che rimanga senza rifiuti da riciclare, che è, come dire, una condizione mortale per qualunque sistema di riciclaggio, non c'è in Italia, no? No, non c'è, per il semplice motivo che per il 2018 la raccolta è stata di circa 63.000 tonnellate su un dato di 430.000 tonnellate di immesso, quindi diciamo che c'è... Ha voglia a fare impianti da 1.000 tonnellate prima di esaurire, come dire, i rifiuti elettronici. E allora, in bocca al lupo, speriamo che questa cosa accada. Grazie Danilo Fontana. Grazie a voi, buona serata. Cari ascoltatori, abbiamo concluso, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a domani. Buona serata anche da parte mia.